pelle del leone non sta. Qui non c'è nessuno che ha ragione, è tutta colpa di una distrazione. Invece di tracciare una frontiera, faresti meglio ad essere più tu, a non scaricarmi addosso il peso, dando la colpa solo malinteso. E chiudiamo tutto con un bacio, litigare mai, che senso ha? Sotto le coperte.